Salva Danaio di Deborah Rosciani. E benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, benvenuti al Festival dell'Economia di Trento. Anche da Trento parliamo di casa. Se dovessimo fare una classifica, questo è di gran lunga il tema preferito da parte dei nostri ascoltatori, e quindi abbiamo deciso di parlarne anche oggi, perché qui al Festival dell'Economia, dove si discute di un tema fondamentalmente politico, sovranità in conflitto, c'è spazio anche per i temi economici che hanno un impatto molto più diretto fra i cittadini. Negli ultimi anni il Festival dell'Economia ha aperto una collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e noi abbiamo voluto questa mattina appunto portare il mondo notarile nel nostro programma per sviscerare il tema della compravendita della casa. Proprio stamattina, poco fa, si è concluso, c'è stato un incontro sul tema il notaio a portata di casa, e noi abbiamo voluto invece il notaio a portata di Salva Danaio. Buongiorno a Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato per l'appunto, con delega alla comunicazione. Benvenuto notaio, bentornato anzi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E benvenuto anche al notaio Marco Dolzani, presidente del Consiglio Notarile di Trento. Buongiorno anche da parte mia. Allora, naturalmente, esattamente come è successo nell'incontro che si è concluso poco fa, i notai si sono fermati a lungo con i cittadini che hanno partecipato per rispondere alle domande più diffuse sul tema della compravendita della casa. Anche questa mattina i nuovi notai sono a disposizione del nostro programma per voi ascoltatori, quindi potete già chiamarci all'800 24 00 24 o scriverci al 349 238 6666. Il tema è comprar casa in tempo di crisi. Il mercato immobiliare è fortemente in flessione, di questi dati appunto parliamo molto spesso, le banche non erogano credito, i posti di lavoro si perdono, per cui non ci sono molte risorse finanziarie per comprare la casa dei propri sogni. Ci sono però delle modalità alternative che stanno sempre di più avanzando e che permettono anche magari a chi è in difficoltà di fare questo investimento: la nuda proprietà, la partecipazione alle aste giudiziali, l'acquisto della casa in costruzione, forse questa è una modalità comunque onerosa che non ha molto cambiato i suoi criteri, il rent to buy, e cioè l'affitto ai fini dell'acquisto. Quindi insomma queste sono le novità delle quali discuteremo con i nostri notai questa mattina. Prima di tutto questo però, come sempre, uno sguardo ai mercati finanziari. Cominciamo con Tokyo, che stamattina, dopo il tracollo nuovo di ieri, ieri la borsa giapponese ha perso il 5%, stamattina ha recuperato l'1,37%. Invece le borse europee proprio non guardano a quanto accaduto né ieri a Wall Street, che è stata nuovamente positiva, né stamattina a Tokyo, sono tutte in ribasso. Si conclude il mese di maggio, quindi gli operatori probabilmente oggi portano a casa un po' dei soldini guadagnati di recente, e i listini sono tutti in calo di oltre un punto percentuale. -1,20% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Il tema comunque è sempre quello americano. Ieri sono stati diffusi dati sul prodotto interno lordo del primo trimestre al 2,4%. Il contributo dei consumi in questa crescita americana è il maggiore da 2 anni, e questo ha generato un po' di ottimismo da parte degli operatori, che hanno detto la politica monetaria della Federal Reserve sta funzionando, data appunto la ripartenza delle spese per consumi da parte dei cittadini americani. Oggi viene diffusa un'altra statistica che ha sempre a che fare con questi temi, redditi e spese personali di aprile, e quindi vedremo se appunto queste indicazioni saranno più o meno confermate. Un'occhiata ai temi di Piazza Affari: Fiat +1,43%, stamattina al Ministero dello Sviluppo Economico l'incontro tra il ministro Zanonato e l'amministratore delegato del Lingotto, Marchionne. UbiBanca +1,15%, il gruppo restituisce un'obbligazione convertibile in contanti, una circostanza che è particolarmente piaciuta appunto ai mercati finanziari. Diasorin +0,36%, Monte dei Paschi oggi l'unico titolo positivo a Piazza Affari +0,34%. I ribassi più forti su Telecom -3,69%, ieri la decisione del CDA di dare il via libera allo scorporo della rete. Ansaldo -3,64%, Finmeccanica -3,59%, con 3 punti di ribasso troviamo anche la Popolare dell'Emilia Romagna e Mediolanum. Direi che per la borsa possiamo chiudere qua. Andiamo invece al tema che interessa di più i nostri ascoltatori e parlavamo appunto proprio del tema della casa e delle nuove modalità di compravendita. Un paio di settimane fa abbiamo dedicato una puntata specifica al rent to buy, ma in realtà abbiamo poi fatto anche, gettato uno sguardo anche sulle altre modalità di compravendita che stanno avanzando di recente per fronteggiare un po' la crisi. Ma notaio noto, stanno avanzando molto queste nuove modalità, secondo quantomeno gli atti notarili che siglate voi. Sì, buongiorno di nuovo, stanno avanzando molto perché in effetti la gente ancora considera la casa come bene rifugio per eccellenza e quindi è vero che ci muoviamo in una situazione in cui ci sono le imprese che hanno pochi acquirenti, gli acquirenti che hanno pochi soldi e le banche che hanno delle difficoltà ad erogare il credito, però comunque la gente ci crede molto e noi sappiamo per primi, come notai, come giuristi, che la prassi poi fa seguire le regole e quindi noi dobbiamo cercare di modellare sulla base della prassi anche le nuove regole in base alle esigenze dei cittadini. Per questo i cittadini stanno puntando su strumenti che non hanno niente di nuovo né tantomeno di derivazione anglosassone, ma sono delle versioni remix, se vogliamo usare un termine diverso, di fattispecie che sono classiche, che sono la vendita, la locazione, la rateazione, l'opzione, il contratto preliminare, il patto di riscatto. Mettere insieme tutte queste cose ci consente effettivamente di dare degli abiti su misura ai cittadini anche quando sono a corto di liquidità. Notaio Dozzani, sono però strumenti nuovi, visto che sono delle combinazioni di modalità già note per quello che riguarda il mercato, che forse richiedono un apporto ancora più forte da parte del notaio, un controllo molto più stringente? Sicuramente, non possiamo parlare in senso stretto di novità, perché sono strumenti che sono già sui nostri tavoli da anni. Però in questo momento, il tema è che finché il mercato immobiliare volava e la trattativa si concludeva nelle modalità tradizionali, questi strumenti erano lì un po' impolverati, diciamo. Esattamente, così. In questo momento di crisi sono tornati alla ribalta e quindi la cosa importante è un'architettura dello strumento negoziale che sia regolamentata con delle persone all'altezza di definire quelli che sono gli obblighi reciproci e di inserire quindi combinare come con un Lego dei contratti, delle tipologie già esistenti che vanno a infilarsi in una concatenazione logica e strumentale rispetto a quello che è l'obiettivo, che è l'acquisto della casa. Certo, c'è un ascoltatore, già sono abbastanza incuriosita dalle osservazioni che stanno arrivando dagli amici che ci seguono da casa. Il primo messaggio al 349-238-6666 di Umberto da Verona, quindi magari lo conoscerete anche. Si può comprare la casa a rate? Chiede. Io vorrei comprare la casa di mia madre, che evidentemente non ha nessuna intenzione di attivarsi con una regolare procedura di successione e donazione, ma in questo caso obbliga o permette, poi non so cosa succede all'interno di questo nucleo familiare, l'acquisto appunto della casa a rate. Succede anche questo nelle famiglie, notaio noto? Certo, succede anche nelle migliori famiglie e ci sono essenzialmente tre tipologie di acquisto a rate. L'acquisto a rate secco, con dilazione più o meno garantita, a volte si può garantire la dilazione addirittura con un'ipoteca legale, ma non credo che sia il caso della mamma che si garantisce sull'obbligazione del figlio. Questa vendita a rate secca può essere accompagnata anche dalla vendita con patto di riscatto, cioè una vendita nella quale il venditore si tiene la possibilità di rientrare in possesso del bene, oppure con la vendita con riserva di proprietà, nella quale l'acquirente invece acquista il possesso e quindi anche i rischi della cosa, ma acquista invece la proprietà solo col pagamento dell'ultima rata, e questo naturalmente è una forma di tutela per il venditore. Certo, allora vorrei acquistare una casa in vendita ad un'asta giudiziaria, ma essendo abitata dalla famiglia esecutata con bambini ed anziani mi hanno detto che ci sono diversi rischi di varia natura. È vero, notaio Dozzani, effettivamente qua ci sono delle implicazioni magari emotive, adesso senza andare a tutte le modalità della compravendita attraverso un'asta, però magari prima di mettere l'occhio in un'abitazione che ha già queste caratteristiche un po' problematiche, forse è meglio accantonare l'avventura, l'impresa, lei che dice? Ma non è detto che valga la pena accantonare, cioè sicuramente vale la pena approfondire, per cui già nell'asta, il bando d'asta dovrebbe contenere una serie di elementi tali da riuscire a comunque convincere l'eventuale acquirente ad asta di quelli che sono i rischi e quelle che sono le prospettive. È chiaro che il fatto che sia abitato dall'esecutato, questo può complicare le cose. Può complicare le cose soprattutto per il fatto dei tempi che possono poi essere necessari per poter direttamente andare ad occupare l'immobile. Tempi che in questo caso devono tener conto di quelle che sono le fasi giudiziarie per poter materialmente far uscire il possessore materiale del bene dal bene. Quindi non è sempre detto comunque che una casa che finisce all'asta per le problematiche appunto che possono essere state evidentemente precedenti, mancato rimborso del mutuo e quant'altro, non è sempre detto che l'abitazione sia vuota. No. Notaio noto, assolutamente no. Devo dire che è più frequente qualche volta che sia al contrario. È capitato che strumentalmente il debitore creasse le condizioni tali da rendere difficoltoso la fuoriuscita. Non è solo quello il punto. I punti essenziali nelle case all'asta dove bisogna fare attenzione sono, al di là dei problemi di occupazione più o meno senza titolo, con locazioni in regime vincolistico o con diritti di abitazione, spesso anche la situazione urbanistica. Mm-hmm. Questa va valutata con grande attenzione, perché uno potrebbe avere anche la sorpresa di dover presentare delle regolarizzazioni in termini di sanatorie nel momento in cui si vede arrivare un immobile a corpo che presenta delle irregolarità urbanistiche anche di un certo livello. Che cos'è l'immobile a corpo? L'immobile a corpo è diverso dall'immobile a misura. L'immobile a corpo sarebbe un po' il visto e piaciuto, quello che è invece l'immobile a misura è l'immobile che vede il suo valore raffrontato a una metratura. Notaio noto, rimango con lei, giusto perché lei si prende la responsabilità di un commento su questo argomento, essendo il delegato alla comunicazione appunto per il Consiglio Nazionale dei Notai. Ho questo studio di Federnotai che mi ha passato questa mattina, non so più se è fuori il collega del Sole 24 Ore Mauro Meazza, che ha monitorato un po' la situazione occupazionale del notariato e dipendenti in Italia. Chiaramente anche per voi ci sono state delle ripercussioni molto forti per quello che riguarda la vostra attività, scaturite dalla crisi del mercato immobiliare. Rispetto agli atti relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili e servizi connessi, rappresentano la metà dei compensi annotati al repertorio. Una frase molto complicata per dire che anche i vostri atti sono andati di pari passo alla diminuzione netta delle compravendite in Italia. Beh, vorrei vedere come potrebbe essere il contrario. Cioè, non dimentichiamo una cosa. I notai sono collegati all'effettiva attività economica delle parti. Quindi delle le nuove cittadini. Modalità non hanno sicuramente compensato le compravendite tradizionali. In questo momento, a livello di cantierizzazioni, i numeri ci dicono che siamo arrivati al 1997, quindi sono 16 anni fa. Uh-huh. Questo naturalmente ha comportato negli ultimi anni una diminuzione del 50% del volume d'affari. È chiaro che a questo corrisponde una riduzione del numero degli atti dei notai, il che da un certo punto di vista non deve spaventare, ma non può neanche essere preso sotto gamba. Sotto profilo occupazionale, noi come abbiamo cercato di reagire a questa situazione? Semplicemente tenendo duro, perché noi formiamo le signorine, il personale che lavora nei nostri studi, con un rapporto che va al di là di quello che può essere la semplice formazione, perché creiamo molto spesso negli studi una vera e propria famiglia, e in questo momento, pur avendo subito una contrazione nei posti di lavoro, perché da 36.000 circa impiegati che avevamo al momento c'è una riduzione di circa 6.000 unità, in questo momento possiamo anche accedere alla cassa integrazione, ma cerchiamo di limitarla, quindi cerchiamo di tenere duro. Speriamo che i volumi riaumentino e speriamo anche che queste nuove formule di accesso al credito favoriscano un aumento del volume dell'operazione. Certo, speriamo che i volumi riaumentino, non solo chiaramente per favorire l'attività dei notai, ma perché questo significa che stanno rientrando un po' di soldini nelle tasche anche delle famiglie, che il mercato del lavoro si è rimesso in moto, e questi sono appunto i presupposti fondamentali per la ripresa dell'attività di tutti. Abbiamo ancora qualche altro minuto. Notaio Dolzani, torno invece a lei, ma capita ancora, può capitare, o magari in questo periodo capita un po' di più, che salti una trattativa di compravendita proprio davanti al notaio, nella giornata in cui invece tutto si dovrebbe perfezionare perché il processo è ormai quasi concluso? Ma purtroppo sì, e forse anche più di tempo fa. nel senso che molto spesso ci si trova proprio nelle difficoltà materiali da parte soprattutto di chi acquista di procurarsi effettivamente il denaro e comunque le sovvenzioni necessarie per concludere il contratto. Magari uno aspirava a dei finanziamenti promessi, si trova poi la porta sbattuta in faccia, oppure diciamo quello che viene richiesto come garanzia da parte delle banche diventa un po' troppo oneroso e quindi ci si trova un po' di fronte ad un muro e a volte si cerca magari di dilazionare il momento della stipula definitiva e proprio per questo credo che siano stati ripescati questi istituti, proprio per dare più tempo e più spazio all'acquirente per poter accedere con meno onerosità, con più tranquillità al credito. Notaio Noto, voi in questi anni avete fatto tantissimo lavoro di divulgazione sulle tematiche della compravendita della casa, tantissime le guide che avete scritto con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Esisterà sicuramente, ma prima di mettere l'occhio sulla casa dei nostri sogni, noi abbiamo spesso cercato di far passare questo messaggio che però vedo che con molta difficoltà magari i cittadini percepiscono. Prima di andare a fare un'offerta per l'acquisto della propria casa, forse è meglio farci una chiacchierata preventiva con un notaio. È possibile farla gratuitamente oppure è un servizio a pagamento anche quello? Conviene, secondo lei, come dire, esercitare un po' di controllo prima di avventurarsi nell'operazione che poi implica anche tante conseguenze, perché se uno già fa l'offerta poi magari la banca non ti dà il mutuo, quindi una chiacchierata preventiva è suggeribile, consigliabile? Questa domanda non può che farmi piacere, perché le 8 guide che noi abbiamo fatto in collaborazione con 11 associazioni dei consumatori hanno proprio questo leitmotiv: il cittadino informato è un cittadino tutelato. Non per niente la prima guida significativamente si intitola mutuo informato. Quindi chiacchierare col notaio può consentire al cliente di approfondire temi anche molto lontani da quelli di partenza e di visualizzare i propri orizzonti nel modo più opportuno. Perché, diciamo la verità, non esistono contraenti uguali. Esiste a volte un contraente con maggiore potere contrattuale e un contraente più debole. Lo scopo del notaio è proprio quello di appianare e di far ricreare questo equilibrio. E quindi, per esempio, negli immobili da costruire, ma anche nelle case di edilizia popolare, nei diritti di superficie dell'edilizia convenzionata, anche la semplice trasferimento tra madre e figlia, mi creda, a ben guardare può rivelare delle criticità sul piano fiscale, sul piano del diritto successorio, sul piano del diritto di famiglia. E quindi non solo una chiacchierata, ma io proprio invito i cittadini a rivolgersi con fiducia per dei colloqui seri, pretendere dal notaio tutta la sua professionalità possibile, perché noi possiamo risolvere dei grandi problemi che per la gente sono veramente, se no, insormontabili. Certo. Intanto suggerisco agli ascoltatori interessati di andare a fare un giro sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato, dove credo che le guide e le 8 di cui parlava sono ancora completamente scaricabili. Non solo, ma abbiamo ancora ben in voga la nostra applicazione I Notai, o Ai Notai per gli anglofoni, e dove potranno trovare le 7 guide consultabili. Ed eccoci ritrovati in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Non si parla solo di temi economici altissimi, il tema di questa edizione del Festival dell'Economia è sovranità in conflitto, ma si parla anche di temi che interessano invece molto molto da vicino gli italiani. Parliamo della compravendita della casa. Come sapete, il mercato immobiliare vive una fase di stallo che preoccupa molto qualcuno, preoccupa molto anche i cittadini che vorrebbero coronare questo sogno della propria vita, ma in questo momento, vuoi per le banche che non erogano mutui, vuoi perché il mercato del lavoro è fermo e quindi magari in questa fase di incertezza è meglio non avventurarsi e stipulare mutui di lunghissima durata, ecco che ci sono molte case in questo momento disponibili sul mercato che non vengono comprate e allora si sono fatte avanti altre modalità alternative per concludere comunque una compravendita, o acquistare attraverso il meccanismo della nuda proprietà, l'asta giudiziale, l'acquisto di un immobile in costruzione, il cosiddetto rent to buy, l'affitto al fine di comprare. Di tutto questo stamattina si è discusso a Trento in un'iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato. Noi i notai li abbiamo portati subito a Salva Danaio per rispondere alle vostre domande all'800 24 00 24. Direi di cominciare subito a sentire i nostri ascoltatori con, ecco, c'era un'ascoltatrice di Bologna. che ha annullato appunto la sua prenotazione. Sentiamo Maurizio da Verona, allora, che tra l'altro si lega ad una serie di osservazioni che abbiamo fatto anche nell'altra parte del programma. Quando si acquista una casa all'asta, una casa però occupata evidentemente dalle persone, qua chiaramente le procedure per entrare in possesso poi effettivo dell'abitazione sono un po' più complesse. Maurizio, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Complimenti ed elogi alla conduttrice e naturalmente alla radio. Grazie, vado grazie oltre Maurizio. Perché servirebbe una giornata. Ridono sono tutti qua in studio, adesso li bastono. Ci dica Maurizio. Fedelissimo. Passo alla domanda. Io ho comprato all'asta e ho fatto un buonissimo affare perché il prezzo era fantastico. Però io ero anche materialmente quello che ha fatto causa all'esecutato, che poi ha dovuto cedere la casa. Però adesso io ho un inquilino dentro che gli scade il contratto a fine anno, che è già stato avvertito tramite lettera raccomandata, non essendo l'esecutato ma un inquilino che aveva fatto il contratto con l'esecutato. Avrò gli stessi problemi nel rendere libero l'appartamento, perché in questo momento ne avrei anche bisogno, perché anche io ho una situazione da risolvere. Allora, quando scade questo contratto d'affitto, Maurizio? Scade a fine ottobre, anno, io ho inviato raccomandata nei tempi necessari. Tra l'altro l'avvocato che aveva la gestione dell'appartamento aveva già avvertito questo inquilino, ma purtroppo è una signora che ha 84 anni che vive con il figlio. Io adesso mi sto procurando quei servizi sociali di dirgli: guardate che questa signora quindi fa delle cose che non sono neanche nella sua responsabilità, Maurizio, quindi con un po' di buon senso. La signora di metterla in mezzo a una strada, ma adesso ho bisogno anch'io dell'appartamento, quindi purtroppo dovrò agire. E voglio sapere appunto dai suoi pregiatissimi ospiti se avrò gli stessi problemi che potrei avere con un esecutato. Ma allora Maurizio, grazie per la sua telefonata. Pregiatissimo notaio Dozzani. Allora, lui ha fatto tutto quello che deve fare, ha dato già comunicazione della disdetta del contratto d'affitto. Il tema è che ci sono delle persone con dei evidenti problemi, quindi che cosa potrà succedere nei prossimi mesi, chi lo sa. Dal punto di vista del notaio è tutto a posto. Ma allora io posso dare due risposte, una risposta giuridica e una risposta diciamo sociale. No, quella giuridica, sicuramente chi acquista subentra anche in quelle che sono le posizioni contrattuali che aveva l'esecutato, quindi è come se fosse il vecchio proprietario che deve chiudere un rapporto e quindi si trova di fronte alle problematiche note in Italia per liberare un immobile alla fine di una locazione. E quindi su questo non è che ci sono delle ricette particolari. Se se l'inquilino non rispetta il termine liberando l'immobile entro la data prevista nel contratto, ci si deve rivolgere, ahimè, ai metodi al mondo giudiziale, quindi bisogna andare dall'avvocato per liberare l'immobile. E questa è la parte giuridica, evidentemente. La parte sociale, io credo che di fronte a una situazione di questo genere siamo di fronte a una persona anziana che quindi ha anche dei problemi diversi, che vive col figlio, quindi insomma credo che sia buona cosa comunque cercare di trovare una soluzione concordata. A Maurizio ha fatto Maurizio ha fatto quello che poteva fare, agendo anche veramente con uno spirito di buon senso lodevole, quindi speriamo insomma che possa risolvere nella massima serenità questa situazione. Notaio Noto, nella compravendita è compito dell'agenzia immobiliare o del notaio effettuare le verifiche catastali dell'immobile? Io, con tutta la rispetto per la grande professionalità dell'agente immobiliare, ma dubito che spesso vadano a cercare queste informazioni, o devono averle? Ma vedi, noi tendiamo sempre a lavorare con grande collaborazione con le agenzie immobiliari. Adesso mi si scateneranno addosso per quello che ho detto, già lo facciamo parte della stessa filiera, il che non significa che naturalmente i compiti non siano distinti. Diciamo, il compito principale dell'agenzia immobiliare, oltre a ricevere una serie di informazioni e darle, è anche quello di trattare l'aspetto commerciale del bene. In questo noi già chiediamo che assumano una serie di informazioni che però possono rendere più agevole la trattativa, quindi anche dare uno sbocco commerciale all'immobile più proficuo. In questo, se noi poi parliamo dell'attività tecnico-giuridica, della stesura del contratto e dei controlli, chiaramente il notaio è il protagonista, quindi se noi abbiamo la collaborazione dell'agenzia, tanto meglio, come ripeto siamo abituati a lavorare in collaborazione, però se dobbiamo dirla, il notaio fa il controllo ipotecario, catastale, più tutta una serie di altri controlli dal punto di vista urbanistico. Ecco, quindi del spieghiamo diritto che di famiglia. La vostra parcella si forma non tanto perché così è una vostra convenzione quella di stabilire determinate cifre, ma ci sono certe proprio, come dire, questioni tecniche che dovete affrontare e che costano. No, non solo, ma sono questioni tecniche anche sulle quali noi ci mettiamo la faccia e quindi la nostra parcella non viene solo poco tanto che sia pagata per il fatto di aver svolto un certo tipo di attività, ma anche per la responsabilità e per il guadagno sociale che il nostro paese ha a vedere una circolazione di immobili appunto nel circuito economico fondata su basi affidabili e su documenti che hanno un'efficacia, una pubblica fede riconosciuta in tutto il mondo. Quindi per concludere, per questo ascoltatore, questa verifica la fa il notaio? La fa il notaio, certo. Perfetto. Invece notaio Dolzani, Marco da Genova ci scrive, per effettuare una permuta di due immobili, quali sono le spese notarili che vanno sostenute e le tasse da pagare per i due contraenti per un'operazione di questo tipo? Ma diciamo che una permuta è un contratto sotto un profilo fiscale agevolato, perché a meno che i contraenti non siano, diciamo, soggetti imponibili che hanno un regime fiscale IVA diverso, per cui quindi abbiamo un privato rispetto ad un'azienda. Ma se poniamo fossero due privati che fanno una permuta, allora le parti sicuramente risparmiano una delle due tasse, perché si calcolano le tasse come se si trattasse di due vendite, si verifica qual è quella delle due tasse che comporta un maggiore introito per il fisco e la tassazione di quell'atto è limitata a questo, quindi viene completamente risparmiata l'altra parte, il che sicuramente è un vantaggio. Anche sotto un profilo di quelli che sono gli oneri notarili, normalmente è come se si trattasse di una vendita, non di due vendite. Ci potranno essere forse degli oneri in più per le maggiori visure che comporta la necessità di verificare due immobili, quindi quello che diceva prima il notaio noto, visure catastali, verifiche ipotecarie, verifiche delle planimetrie, eccetera, però sono dei costi limitati. Allora, no, tra l'altro stavo ipotizzando una permuta magari fra due abitazioni, due immobili che hanno un valore di mercato completamente diverso, non c'entra niente naturalmente con l'aspetto fiscale. No, non c'entra niente con l'aspetto fiscale, appunto ritorna il discorso di che abbiamo fatto prima, si paga solo una tassa di quell'immobile che comporta un maggior introito per il fisco. Si fanno molte permute, notaio Dolzani? Beh, a volte direi di sì. In questo periodo poi è abbastanza frequente che magari qualcuno possa permutare un immobile diciamo di maggior valore o che può comportare diciamo degli spazi maggiori con un altro, e a volte questo succede abbastanza frequente. Comprar casa in tempi di crisi, come si fa, come si richiudono queste compravendite? Tra l'altro anche nei tempi di chiusura delle trattative, come sapete, si sono allungate notevolmente negli ultimi anni, questo è un altro aspetto. Allora, per quale motivo le trattative saltano, non si concludono? Ce lo racconta in un esempio Diego da Pordenone, poi gli risponderemo con i nostri notai in studio, nello studio di Piazza Pasi a Trento, dove siamo in diretta in occasione del Festival dell'Economia. Diego, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho fatto un preliminare con un atto notarile e un'agenzia immobiliare sulla vendita di un mio immobile. Sono passati 3 anni dal termine ultimo e il compratore non ha ancora dato fine all'acquisto perché dice che le banche non danno mutuo a chi non ha lavoro a tempo indeterminato e quindi sono in attesa. E vorrei sapere, intanto so che posso sciogliere il contratto e tenermi la caparra. Però l'eventuale mancato guadagno eventualmente di un successivo acquisto, perché adesso gli immobili son calati di prezzo, posso chiedere il risarcimento in giudizio? Se per si può addirittura rivalere in un altro modo. Diego, molto interessante il suo caso, la ringrazio, ci metto insieme anche Lucio da Roma così poi facciamo delle risposte complessive. Lucio, buongiorno, anche la sua. Buongiorno a voi. Una bella osservazione. La domanda è questa: come mai, nonostante le misure, i controlli notarili, nonostante le banche concedano i mutui, a volte certe case risultano poi costruite su terreni inedificabili e quindi vengono annullate tutte le operazioni di compravendita, come è accaduto per esempio a Riano Flaminio, mi pare di recente. Come succede? Com'è possibile che accada tutto questo? Lo so, perché sono degli esseri umani anche loro, poveretti, non sono come dire infallibili, anche i notai. Vuole cominciare noto da quest'ultima osservazione, qualche volta sbagliate pure voi, non potete avere la disponibilità al 100% di tutte le informazioni possibili su terreni, immobili, edifici? Comincio volentieri, anche perché saluto l'ascoltatore, non so se uno degli sfortunati acquirenti di Riano, ma io conosco molto bene il caso di Riano e posso dirle anche... Ce la riassume perché non me la ricordo. Praticamente in quel caso lì sono state edificate più di 100 villette, alcune delle quali con piscina, su un'area che poi si è scoperta essere un'area a prevalente destinazione agricola con possibilità di costruire annessi rustici. Devo dire che l'episodio è stato particolarmente spiacevole per le famiglie alle quali abbiamo anche espresso solidarietà in passato, perché dal 2004 al 2008 è sembrato che andasse tutto bene, ma poi nel 2008 un giudice ha disposto il sequestro degli immobili e le famiglie sono state proprio sbattute espropriate completamente una mattina all'alba dalla forestale. Questo ha creato tutto anche un problema di carattere sociale. Devo dire, per onor di cronaca, che i notai che sono stati chiamati a rispondere di questa anche situazione sono stati tutti prosciolti, e tutti coloro che hanno fatto gli atti, proprio perché il compito che hanno svolto è stato il compito diligente che la legge gli consente di fare. Lì le case erano munite di agibilità, quindi il problema che ci dobbiamo porre è, poiché i notai non sono comunque giuristi ma non sono notai ingegneri, se il controllo che deve fare il notaio è un controllo che già si spinge anche al di là del semplice controllo formale, però comunque controllo formale resta, ci si può chiedere se oramai siamo pronti ad avere una legislazione che preveda una sorta di bollino blu, di semaforo verde, o da parte della pubblica amministrazione o da parte di terzi certificatori prima di essere messi in commercio. Vi capita, notaio, di andare anche a visionare direttamente gli immobili che poi saranno oggetto di una compravendita, o prendete visione solamente delle carte? Ma dipende. Chi per esempio ha la fortuna di essere un notaio cosiddetto del posto spesso conosce, certo, l'ambiente di circonda. Devo dire che una volta personalmente è capitato anche a me, perché avevo notato negli atteggiamento delle parti un atteggiamento molto strano, in quanto mi avevano chiesto di effettuare una vendita di un terreno, ma io mi pareva di ricordare che quel terreno non fosse solo un terreno. E sono andato proprio a vedere e difatti ho riscontrato che sul terreno insisteva un piccolo fabbricato chiaramente abusivo. È chiaro che i notai non possono fare sopralluoghi tutte le volte. In questo noi chiediamo molto la collaborazione, ripeto, delle agenzie immobiliari, certo, sulle indagini di fatto. Però creda, i notai tante volte si trovano a fronteggiare delle situazioni che vanno ben al di là del semplice contenuto delle norme e del contratto. Certo, notaio Dolzani, invece abbiamo in sospeso anche il caso dell'ascoltatore precedente che ci ha raccontato, ha stipulato questo contratto preliminare ben 3 anni fa, quindi lui ha vuole acquistare questa casa, però ecco, il venditore non riesce a vendere un'altra, adesso non mi ricordo esattamente il caso, di fatto lui può rivalersi contro questo esito che non si definisce appunto di questa trattativa? Ma diciamo, intanto bisognerebbe verificare il contenuto del contratto preliminare, perché ci sono sicuramente contenute delle clausole, bisogna verificare anzitutto se la clausola... Il preliminare, stavo riassumendo, il compratore della sua casa non riesce ad ottenere il mutuo, per cui lui ha già evidentemente una caparra. Bisogna capire che tipo di caparra si tratta, perché a seconda che sia trattato di una caparra confermatoria o penitenziale, le cose possono cambiare, perché la caparra penitenziale è praticamente una caparra che determina quello che è il danno per il mancato adempimento, quindi l'entità pagata come caparra penitenziale è quello che uno ci rimette nel caso in cui non voglia o non possa adempiere il contratto, appunto, e rimane così. Se invece la caparra è una caparra confirmatoria, l'altra parte può comunque pretendere, la parte non inadempiente, può pretendere in ogni caso l'adempimento. Nel caso di mancato adempimento può anche pretendere il risarcimento del danno se ha avuto dei danni ulteriori rispetto a quelli che sono quantificati nella caparra che ha subito in virtù del mancato adempimento. Nel contratto preliminare che lui ha stipulato c'è la definizione di caparra, se è del primo o dell'altro tipo, in modo tale che lui sa cosa può fare? Normalmente sì, se manca la definizione, per giurisprudenza costante si tratta di una caparra confirmatoria, quindi il secondo caso. Allora, tra l'altro, questo caso mi spinge anche a dare un altro suggerimento ai nostri ascoltatori. non ci siamo mai stancati di darne di questo tipo tutte le volte che facciamo appunto una trasmissione su questo tema, sul tema della casa. Forse è meglio prima farsi ancora prima del notaio, andiamo in banca a vedere se siamo dei profili di creditori adeguati ad ottenere il mutuo, quindi prima ancora di dare la caparra e firmare un contratto preliminare cerchiamo di vedere se siamo un soggetto notaio noto, no? Che ha il profilo per ottenere il mutuo che ci serve, sì, perché se questo signore si è impegnato per un contratto da 200.000 euro e poi non riesce ad ottenerlo, se avesse saputo prima era meglio. Lei non sa quante volte capita che dopo aver firmato il preliminare il soggetto promettente acquirente si accorge tra virgolette di non essere un buon soggetto bancabile, perché è vero che c'è la stretta creditizia, però è anche vero che qualche volta i soggetti affrontano un po' alla leggera le pratiche di mutuo e poi si scoprono che non sono in grado di avere i parametri per accedere al mutuo. Questa è la novità di queste operazioni che mischiano vendita, locazione, patto di riscatto, eccetera, perché sono delle leve finanziarie e consentono, dilazionando il tempo tra l'acquisto del possesso e l'acquisto della proprietà, di crearsi uno storico sotto il profilo bancario, di fare la cosiddetta equity, cioè aumentare la percentuale del capitale proprio rispetto al capitale finanziato, e di rientrare nei parametri più facilmente per la concessione del mutuo. Quindi in sostanza tutte queste persone che al momento hanno carenza di liquidità potranno trovare in queste formule, chiamiamole poi come vogliamo, rent to buy, delle buone opportunità, perché gli avranno la possibilità di avere un accesso più redditizio al credito. Dovremmo fare sicuramente più trasmissioni su queste nuove modalità di chiusura appunto delle compravendite immobiliari e le faremo. Io intanto ringrazio Gabriele Noto per essere stato con noi e il notaio Marco Dolzani. C'era un ascoltatore da Bari che voleva chiederci: ha acquistato un bar, ha scoperto che ci sono delle pendenze giudiziarie, quanto doveva il notaio impegnarsi nell'informarlo su queste pendenze. Giuseppe, un caso un po' complesso, ci scriva, gireremo la sua domanda ai nostri amici notai. Grazie. Grazie a tutti per essere stati con noi, a Valentina Magri, Paolo Corleoni per l'assistenza qui da Trento, anche a Davide Cioci, anche se ha dormito oggi un po' qua dietro le mie spalle, Gianmarco Ferronato da Milano con Laura Fagin. Salva Danaio.